Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Verbanega, traversone deviato, D'Ambrosio! Danilo! D'Ambrosio! Bruno Fernandes. Salta facile Brozovic, la mette sul secondo palo, Skriniar, non arriva Silvestre! Mattia Silvestre, ma forse l'ultimo tocco è di Patrick Schick. 1-1. Fabio Quagliarella. 2-1. Beh, se fosse questa la classifica finale, sì, sarebbe sicuramente una stagione non positiva. Questo sì. Chiaro che abbiamo avuto un'occasione e non siamo riusciti a sfruttarla. È altrettanto vero e è chiaro che il campionato non finisce oggi. Subito questa sconfitta sarebbe un po' ipocrita dire di arrivare in Champions League. Penso che adesso dobbiamo puntare sull'Europa League e fare bene fino alla fine del campionato. Grande musica, credo che anche Guido Bagatta apprezzi. Ciao, decisamente. Così come credo abbia apprezzato da cinefilo la nostra situazione. Se ti convocano, tu vai. Beh, sì, lascio anche quello. Purtroppo il classico di chi ha fatto il gol del pareggio lo vedremo poco, perché secondo me ce l'hanno già venduto, però ma, va bene così. Ma sì. non lo so, ma perché sei così pessimista? Pardo, ciao. No, non l'hanno venduto. Non l'hanno venduto. Allora io vi dico una cosa. Dici una cosa. Io l'altro giorno ho visto casualmente Manchester City Arsenal e c'era Mustafi, giusto? Sì. Ha fatto bene a venderlo, perché è un ottimo giocatore, l'ha venduto bene e merita quel tipo di palcoscenico lì, anche se poi in realtà ci è arrivato il rimbalzo, non direttamente. E per Schick sarà la stessa cosa. Se ti offrono oggi 18 milioni per Schick, non glielo dai a una squadra che non ha un proprietario cinese, non ha una petrolifera, gli dai soldi e bilanci. Tanto alla fine, e questo l'ha capito Urbano Cairo prima di tutto, alla fine se ti va bene vai in Europa League, se ti va benino ti salvi con giustizia come la Sampdoria, se per caso ti va di sfiga hai un polziato grosso fino all'ultimo, però non cambia, il campionato non lo vincerai mai, in Champions non ci vai col calcio di oggi e quindi... Beh, però il tanto bistrattato Ferrero ha costruito una Samp che sinceramente io inizio stagione vedevo, non ti dico tra le papabili per la retrocessione, però non certo con questa classifica. Magari ti tieni Schick ancora per un anno, lo valorizzi, perché fino adesso abbiamo visto scintille di Schick. Sì, beh, lo fa giocare sempre al secondo tempo, d'altra parte con i due che hanno davanti è anche giusto così, il più giovane lo fa entrare dopo, no? Beh sì, però se lo vuoi valorizzare parte lui più altri 10, poi magari l'anno dopo lo vendi a 30. Ma non lo so, però ti dico, anch'io all'inizio della stagione, non essendo un grandissimo esperto di calcio internazionale sui giovanissimi, a parte Torreira che giocava ovviamente dietro l'angolo, però tutti gli altri mi sono chiesto, questi chi sono? I Linetti, questi personaggi, quindi molti dubbi ce li avevo. Poi se guardi bene da 3 mesi a questa parte, credo che la Sampdoria abbia fatto forse più punti tutte tranne che la Juve, se non sbaglio. Quindi alla fine Ferrero ha avuto ragione, ma con lui anche Osti, che perché all'inizio c'era Osti che faceva il mercato, Osti che ha dimostrato di essere uno molto più bravo di quanto si pensasse probabilmente. Pierluigi, cosa hanno in testa oggi i tifosi dell'Inter? Hanno in testa secondo me un grande crollo del desiderio, perché perché comunque l'Inter, insomma, almeno dava la sensazione di poterci credere fino alla fine. Se avesse vinto ieri sarebbe portata almeno 3 dal Napoli, e poi probabilmente in Champions non ci sarebbe andata. Però no, la partita di ieri è, non è la prima volta, fra l'altro, che succede, no? Che l'Inter fa un percorso molto positivo, di grande crescita. I numeri di Pioli, leggevo un tweet del nostro amico Capuano stamattina, i numeri di Pioli rimangono molto buoni, però poi alla fine tutte le volte che l'Inter si è avvicinata alla possibilità concreta di riaprire con un'impresa, per carità, perché adesso stiamo parlando, c'era Champions League, dato il punto di partenza della gestione di Pioli, era qualcosa di iperuranico, ecco, però tutte le volte che l'Inter si è avvicinata poi alla fine è arrivato lo scossone in negativo da Inter-Roma in poi, quindi insomma, secondo me sì, i numeri stanno sulla carta. Secondo me adesso c'è una divertente partita a Chapanò per non arrivare sesti, perché veramente il sesto posto, beh, insomma, il sesto posto è una roba, e per è Inter e Milan che hanno delle tournée internazionali già inchiostrate e molto remunerative, e poi direi che soprattutto Pioli, dico purtroppo perché secondo me è un ottimo allenatore, con la partita di ieri credo che abbia salutato la curva di San Siro, perché difficilmente, già c'erano voci abbastanza insistenti, difficilmente dopo una prestazione del genere in una partita che faceva veramente la differenza per l'Inter, credo che lo possano riconfermare. Sì, indipendentemente se poi Conte, che mi sembra un po' fantascientifico, molli il Chelsea dopo aver vinto il campionato, però, in questo modo. Guido, questo è un discorso quasi politico-calcistico, nel senso, Suning, che peraltro ha appena acquisito così d'amblè i diritti per la Bundesliga, 250 milioni di euro, se arriva qui e vuole vincere subito, vuole costruire la squadra per vincere subito, beh, allora mette i soldoni e va a prendere anche un allenatore di grido. Va benissimo. Ah, io sono il primo a dirlo, però il problema è sempre quello. Qual è l'allenatore di grido se quelli di prima fascia non si muovono? Io ti faccio sentire uno che non grida, questo qui. Grandi risultati, tant'è che un mio amico carissimo mi ha detto: Marco, prendi una scusa e vattene. Perché è ripetibile. Però abbiamo dato una grande gioia ai nostri tifosi. Il ragazzo sono stati straordinari. Partita sempre di grande intensità. Siamo mai arretrati. Bene, poi siamo stati premiati con questa vittoria che ci dà di grande prestigio. Bene, e a beneficio di entrambi, mentre chiamo gli ascoltatori, li convoco tutti, 800240024, vi leggo questo messaggio subito. Giampaolo, la Juventus, scrive un ascoltatore. Certo, l'anno scorso non lo voleva prendere neanche in Serie B. Ricordi che Giampaolo ha fatto un percorso, se guardi, sembra un'azione di una società della New Economy in borsa, dipende con le bolle. Giampaolo negli ultimi 5 anni l'ha andato in tutte le squadre, poi in un momento non volevano neanche veramente entrare un posto in Serie B, è arrivato la Sampdoria come terza scelta, ricordiamoci. Vero, bravo. Esatto. E adesso dimostra di essere un buonissimo allenatore. Il problema è che quel tipo di allenatore alla Giampaolo, non so poi in una grande squadra con un altro tipo di pressioni, perché poi Ferrero può essere tutto, ma non è uno che ti sta attaccato alle chiappe, nel senso ti fa lavorare, altrimenti l'avrebbero licenziato Giampaolo nel momento in cui la Sampdoria non la beccava mai attorno a Natale. Ecco, non so, con una pressione diversa, se Giampaolo possa rendere. È sempre lì il test, perché alla fine sono pochi quelli come Allegri, come Conte, per dire, degli italiani, che resistono a certi tipi di pressioni in grandi squadre. Lo stesso Mancini ha fatto molta fatica, lo si è visto. Certo. Uno come De Boer, che sembrava un fenomeno in Olanda, è arrivato qui e dopo 2 mesi è scappato, o l'ha fatto scappare. L'ha fatto scappare a gambe levate. No, capito, è tutto un altro discorso. Mihajlovic, che era un fenomeno alla Sampdoria, è arrivato in una grande squadra come il Milan e ha fatto fatica a sopportare e a supportare l'ambiente. Adesso al Torino è così, tornato un buon allenatore. Così cos'ha quest'anno al Torino, secondo me, sotto il par. All'inizio molto me. Bene, adesso credo che se parlassi con Cairo, non alla radio, diciamo in uno contro uno, caro, ti direbbe anche lui che è sotto il par per le sue aspettative ultimamente. Io l'ho visto domenica, l'Udinese ha fatto una fatica della Madonna in Torino. Senti Guido, prima di salutarti, poi vado avanti ovviamente con Pierluigi Pardo e ovviamente sull'argomento Inter, 800240024, i fuochi della festa non si saranno ancora spenti a Chapel Hill, casa dei Tarleys di North Carolina. North Carolina è la Juventus del basket, nel senso, una squadra, per fare un paragone, guarda che vince abbastanza, vince tanto, questo è il sesto titolo, credo che sia andata 10 volte in finale. Il problema è che ieri sera, nonostante il punteggio abbastanza stretto, è stata la non partita. Noi parliamo tanto degli arbitri di basket italiano, ma soprattutto di calcio. La peggior crew di 3 arbitri che io abbia mai visto, addirittura, quelli non hanno fatto giocare, hanno praticamente fischiato qualsiasi cosa, tant'è che i lunghi di Gonzaga, che era l'avversario di North Carolina, squadra gesuita, ricordiamolo, perché il Gonzaga di Milano sta al Gonzaga dello stato di Washington, comunque i lunghi di Gonzaga avevano 4 falli all'inizio del secondo tempo e non hanno più potuto giocare. Partita stravolta agli arbitri, bruttissima, perché praticamente a 10 minuti dalla fine è stato un tiro a segno dai tiri liberi, perché ogni fallo era lunetta, ogni fallo lunetta, e quindi ti diverti poco, soprattutto se vai a letto alle 6:30 del mattino come sottoscritto. Sì. Se la partita era di notte, tanto che LeBron James dalla sua poltronissima ha twittato contro gli arbitri pure lui durante la gara. Per la però lui aveva un fuso orario un po' più facile. Io tra so. Caffè e sberloni e il bassotto che mi leccavo sono riuscito a stare però ho fatto fatica. Sentiamo presto, Guido. Un abbraccio, grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao, Pier. Tu non l'hai vista, no, Pardo? No, beh, mi devi perdonare, mi devi veramente perdonare. Però perché ho fatto le 2:15 di Daga, quindi insomma, non l'ho vista. Sono impreparato, come a scuola. Un paio di caffè, vedeva. No, la nonna che è stata male. Sì, quindi non ho potuto. C'è la giustificazione. Ci sentiamo subito dopo il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Convocati. Io non ho né timori né altri pensieri che quelli di cercare di tirare fuori il massimo dei miei giocatori e di dare il massimo da qui alla fine del campionato. Poi dopo i risultati ci diranno cosa sarà il futuro, ma non è questo il momento di parlarne, non ne state parlando voi troppo e io assolutamente non sono né preoccupato né timoroso, nemmeno ci sto pensando. È questo che dobbiamo fare tutti, perché il campionato finisce il 28 maggio, perché le somme si tireranno in quella data lì, perché oggi abbiamo perso un'occasione, ma ce ne sono ancora altre dove possiamo dimostrare di essere una squadra di valore. Pioli sì, Pioli no, Pioli forse. 800240024, numero verde. Pierluigi, salutiamo insieme lo zio Bergomi. Assolutamente, ciao. Ciao ragazzi, ciao Carlo, ciao Pier. Maestro e zio di tutti noi. Ma come? Maestro e zio di tutti noi, soprattutto maestro zio. Maestro e zio di tutti, zio, noi. Sì, tutti va bene. Siamo tutti di fuori. L'unico uomo che sembrava più vecchio a 18 anni con i baffi che adesso siamo arrivati a 50 e qualcosa. Implacabile, eh? La grande consolazione è che si invecchia tutti insieme. Poi finché si invecchia vuol dire che come l'hai vista? Non benissimo. Non bene, do dei meriti alla Sampdoria, perché Sampdoria in questo momento affrontarla non è facile, però a tutte e due dico, no? Perché se si attacca tanto Pioli in questo momento, dico, ma solo per una scelta, cioè il cambio Brozovic con Dogbia può aver condizionato tutto quanto. Poi certo gli episodi hanno detto che Brozovic si è fatto saltare sul primo gol, che ha fatto un calcio di rigore, che la squadra sicuramente non si è espressa come avevamo visto l'ultima partita in casa, quel 7-1 contro l'Atalanta. Che Icardi non ha fatto l'Icardi, perché Icardi deve quei gol lo deve fare, perché Pirzic è stato meno incisivo di altre volte, lo stesso Candreva, perché l'uscita di Gagliardini ha condizionato il centrocampo. Mettici dentro tutto questo, ma io non voglio farmi condizionare da questa partita sul giudizio su Pioli, perché lo ritengo sempre un grande allenatore, un buon allenatore che sta facendo molto bene. E questo continuo a metterlo in discussione o pensare che debba arrivare un altro non fa bene a lui, non fa bene non a lui. Però scusa, gioco sulla mezza citazione che hai avuto. Bravo, anch'io. Un buon allenatore e un grande allenatore, la stessa cosa che volevo chiederti. Bravo, Pardo, fratellino. Grazie. Allora, Stefano sta facendo un percorso ed è cresciuto sempre. perché alla Lazio l'ha portata in alto. Qui con l'Inter aveva fino a ieri sera una media punti di 2,24 e sappiamo quanto è difficile allenare a Milano e l'Inter, parole di Trapattoni, una centrifuga, quindi non è facile. E quindi non mi voglio far condizionare da questa ultima prestazione, reputo un buon allenatore in crescita. Ho capito, zio, però facciamo discorsi di, prima ho detto, di calcio politica, facciamo di macroeconomia calcistica, insomma, sì. Il discorso è, Suning arriva, che cosa vuole? Vuole procedere per gradi, confermare Pioli, migliorare la squadra, arrivare alla Champions, in zona Champions League, ricordiamo l'anno prossimo sarà il quarto posto, o arriva, mette un sacco di soldi e vuole spaccare tutto? Può fare quello che vuole se ha una disponibilità economica, però ragazzi, io disponibilità economica c'è in questa maniera. Allora, se devo pensare a un Milan vincente, Berlusconi prese Sacchi, che non era il top, però aveva una mission, un'idea, e quindi è andato a prendere quel tipo di allenatore. Faccio un altro esempio, nel Real Madrid allena Zidane. Secondo voi Zidane è più bravo di Pioli? Per me no, avevamo tutti dei dubbi, quindi ha grandi giocatori, quindi questa squadra secondo me se la migliori, metti dentro quattro giocatori importanti, la può allenare anche Pioli, Stefano, e può farla vincere, secondo me. Pardo, cosa ne pensi? Sei d'accordo? Ma io sono d'accordo, il punto è che però secondo me se l'ipotesi è Conte, tanto per capirsi, è Conte quell'ipotesi che... Perché è vero l'esempio di Sacchi, è vero anche l'esempio di Guardiola al Barcellona, cioè tante volte sono le idee, ed è bello tutte le volte in cui le idee superano il pedigree o il curriculum o la bacheca di un allenatore, per cui riconoscere delle qualità a qualcuno giovane, lanciarlo e adottare una filosofia e andare dritti così, questo è bellissimo. Però insomma, io se ci fosse Conte libero prenderei Conte, te lo dico, perché secondo me Conte è un allenatore che innanzitutto significherebbe indirettamente che l'Inter ha una disponibilità economica e una progettualità di un certo tipo, quindi sarebbe una sorta di conferma indiretta della bontà del progetto dal punto di vista economico. E poi penso che sia in questo momento l'allenatore, l'esempio del Chelsea è perfetto, che riesce a risolvere le situazioni e a fare una rivoluzione, che è un po' quella che serve all'Inter. Cioè, io sono d'accordo sui meriti della Samp, la Samp sta facendo delle cose fantastiche in questo momento, viene da un momento veramente molto positivo, contro la Juve che pure non ha giocato la migliore partita, la Samp si è fermata, ha giocato bene, però alla fine ha costruito poche occasioni. Questo è il salto, è lo scarto che l'Inter deve fare per diventare una grande squadra. Secondo me ci sono i presupposti perché possa crescere. Sì. Io penso che sarà la prossima grande del calcio italiano. Anch'io lo penso, infatti sono molto curioso di vivere l'estate, ma soprattutto non ne posso più di vedere derby depressivi come quello che ci aspetta. Allora, l'Inter sarà la sesta volta senza Champions League consecutiva. Il Milan si appresta alla quarta stagione senza Champions League consecutiva. Appunto, il derby che vivremo sarà il derby ormai cui siamo tristemente abituati, Beppe. Cioè il derby della Grande Depressione. La Milano del calcio così non può più andare avanti. Che una o l'altra torni ad essere una grande squadra. Perché il calcio italiano ne ha bisogno, mica chi vive a Milano. Così come il calcio italiano aveva bisogno di una grande Juventus. No, perché la Juventus ha bisogno delle due milanesi per sentirsi ancora più grande, perché le maglie di Inter e Milan pesano tantissimo, perché senza nulla togliere a Napoli e Roma, poi abbiamo visto che Roma deve vendere per fare mercato e poi non riesce mai a colmare quel gap. È stata la rivale storica quando l'Inter ha aperto il ciclo, è stata la rivale adesso della Juventus, ma non arriva mai a vincere. Lo stesso Napoli, cosa gli vuoi dire a Napoli? La squadra che gioca bene, che fa un ottimo calcio, però alla fine non ce la fa mai ad accorciare. Per quello dico che le maglie di Inter e Milan sono pesanti e il calcio italiano, ma anche la stessa Juventus, ha bisogno di confrontarsi con queste due squadre ad alto livello. Sono d'accordo. Questo è fondamentale per la crescita del calcio italiano, Pardo. È inutile girarci intorno. Ragione lo zio, con tutto il bene che possiamo volere alla Roma, Napoli, alla Lazio. No, questo è assolutamente fondamentale. La crisi europea del calcio italiano è la crisi di Milano. E tante volte in questi giorni, perché io veramente questa cosa la sento come una frustrazione assurda, cioè Roma e Napoli, lo ripeto tipo un disco rotto, stanno facendo delle cose enormi, cioè il fatto che Roma e Napoli siano lì da 3-4 anni a competere subito dietro la Juve con un budget che è nettamente inferiore, con una forza economica che è nettamente inferiore, è qualcosa di enorme. E ti dico la verità, parlando off record con qualche dirigente, ad esempio della Roma, un po' di questa frustrazione viene fuori, perché l'idea che ci sia stata per buona parte della stagione, stasera rivedremo l'Olimpico pieno, c'è il problema delle barriere di sotto, ma insomma una sorta di così quasi di rassegnazione al secondo posto è assurdo, perché per la Roma arrivare seconda è quasi vincere lo scudetto, e lo sarebbe lo stesso per il Napoli. Quindi questo è evidente, però è ovvio che o Roma e Napoli trovano delle risorse economiche che in questo momento non hanno, oppure queste risorse economiche le possono trovare l'Inter e il Milan. L'Inter è più avanti sicuramente, il Milan è più... il Milan non si sa, magari fra un mese anche il Milan sarà a quel punto lì, però la crisi del calcio degli ultimi anni è la crisi di Milano, da mille punti di vista. Poi ci sono anche altri piccoli aspetti, per esempio Roma e Napoli in questi anni, e ci metto anche la Lazio quando è uscita preliminare col Bayer Leverkusen, si sono dovute appunto confrontare con un ranking che non era altissimo in Europa. Il Napoli fu spiegato perché beccò l'Atletic Bilbao da testa di serie, il Napoli da testa di serie e beccò la squadra sicuramente più forte fra le altre, ma in generale è chiaro che se ci fossero andate Milan e Inter magari con la forza del loro ranking 3 anni fa o 4 anni fa, magari avrebbero avuto un preliminare Champions League più morbido di quello che invece hanno incontrato Roma e Napoli negli ultimi anni, la stessa Lazio col Bayern Leverkusen. Per cui il problema è strutturale. Poi ovviamente l'augurio è che ci siano sempre più società italiane con dei grandissimi capitali, però Roma e Napoli stanno facendo il massimo di quello che possono anche fare. Secondo me, mentre quello che può dare la svolta è la proprietà dell'Inter adesso, quella del Milan è avvolta nella nebbia. Un'ultima cosa per Beppe Bergomi, ieri abbiamo sentito un tuo amico Massimo Mauro, un tuo compagno di banco, critico nei confronti di Allegri. Oggi Allegri si è arrabbiato dicendo ma più di così cosa volete da me? Cosa mi continuate a rompere le scatole? Ho vinto, sto per vincere il terzo scudetto, ho fatto due Coppa Italia, magari ne vinco tre, e vado a giocarmi la Champions League, ma di più di così che cosa devo fare? No, ma noi l'abbiamo sempre esaltato e io continuo a esaltare Allegri come allenatore, perché riesce a tirare fuori sempre il massimo dei propri giocatori, poi li fa ruotare sempre bene, sempre attento, sopporta bene le pressioni, perché questo è un dato secondo me da sottolineare. Però Massimo voleva dire giustamente, noi dobbiamo stare sulla partita, non possiamo dire che la Juventus ha fatto una buona partita. No, la Juventus ha difeso, non è mai ripartita, e allora nella singola partita Massimo ha detto secondo me quello che pensiamo un po' tutti, che la Juventus non ha fatto una bella figura, poi ha portato a casa il risultato, ha saputo difendersi con ordine, ha tirato fuori quello che voleva in quelle condizioni, perché arrivava dalla sosta con tanti giocatori che insomma hanno giocato con le nazionali, qualcuno ha dovuto riposare, tutte le attenuanti che vuoi, però non ha fatto una bella figura. C'è un punto di fondo che Allegri da quando, dal primo giorno in cui era sulla panchina della Juve, ha sempre avuto una buona carriera, cioè nei confronti di Allegri faccio proprio l'allegriano doc qui. Sì, anche io. Sembra sempre sembra sempre che debba dimostrare qualcosa in più di tutti gli altri. Allegri ha ottenuto dei risultati anche a livello europeo, poi si potrà discutere, il Monaco c'era rigore, il Borussia Dortmund non era al top, ma insomma la Juve è arrivata in finale al primo anno di Allegri. Guarda, io già ti dico, per Luigi essere giocata per buoni tratti. Poi lo sentiamo, oggi gli hanno sottolineato conferenza stampa pre-partita, pre-gara con il Napoli, ha sottolineato è perso tot finali, poi sentiamo cosa ha detto. Grazie Beppe, alla prossima. Ciao, un abbraccio. Beppe Bergomi. Ciao. Borsa, torniamo e andiamo avanti su questi temi, signori. 800 24 00 24, numero verde. Dopo GR delle 15 invece tutti a Roma per vivere la vigilia del derby. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Tutti convocati. Mentre Edoardo Lavezzare della redazione mi segnala un messaggio, cioè su un Insta, commettendo gli stessi errori che a suo tempo commise Moratti, cioè la voglia di voler vincere subito, io trovo le situazioni al momento ancora molto differenti. Ovviamente Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato, sempre in regia, stanno mangiando qualcosa. Che mangiate, ragazzi? Caramelle, ne voglio una anch'io. Pardo. Diga. Chiedi scusa. A chi? Agli italiani che, guarda, che guardano Tiki Taka. Perché? Pardo, la situazione è peggiorata. A furia di spostare Tiki Taka sempre più a notte fonda, avremo ripercussioni sulla produttività del paese il martedì a causa di italiani rimbambiti dal sonno. Fabio da Torino, chiedi scusa, subito. Sì, devo chiedere scusa, ma dico anche grazie, perché nonostante l'orario delle ultime settimane, che è veramente un po' troppo, veramente un po' troppo, anche ieri andava benissimo, soprattutto il numero, sai che c'è lo share, ma lo share in quel caso conta poco, quello che conta è più di 500.000 persone tra mezzanotte e mezza e due di notte, insomma sono... Poi sfido, chiedi scusa. Chiedi scusa ai datori di lavoro. Gli mandi ai ragazzi rincoglioniti dal sonno, scusami. Magari a breve di Chitaga lo vedremo anche in orari diversi. Vedremo. Vabbè, intanto sentiremo Andrea. La mezza notizia. Vai. Sentiremo Andrea da Prato subito. Sentiamolo. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e grazie mille per darmi la possibilità di partecipare alla vostra trasmissione. No, com'è formale? Come dice? Com'è formale? No. Siamo tra amici. Allora, io ho potuto sentire soltanto l'inizio dell'intervento di Bergomi, cui peraltro sono coetaneo, mi ricordo che quando vinceva la Coppa del Mondo io davo la maturità, insomma. Certo, 18 anni da una parte, 18 da... me e lui, sì. Aveva i baffi anche lei? No, non avevo i baffi. Niente baffo. No, dicevo che secondo me Pioli è un ottimo allenatore, ma non è quell'allenatore che può far fare la differenza ad una squadra come l'Inter. E lo si capisce, secondo me, da due cose. In particolar modo, quando ha messo in campo la squadra contro la Lazio in Coppa Italia. Sì. Secondo me non doveva rinunciare a tentare il massimo per vincere la Coppa Italia. Lì è stato un errore, l'abbiamo sottolineato più volte, con la matita rossa e blu. Secondo me è stato un errore grande. E poi in disaccordo con Bergomi... Secondo me cambiare un uomo a centrocampo, dato che nonostante sia un tifoso riconosco anche i limiti della mia squadra, secondo me è andato a spostare degli equilibri. Sì, Gagliardini con Brozovic non si trova. Se voi guardate le prestazioni dei due, però non può quando essere hanno spiegato. Giocato insieme, sì, è vero, però non può essere stato quel cambio. Io sono d'accordo sul fatto che uno dei grandi capolavori di Pioli sia stato quello di valorizzare questa coppia, cioè quello che sembrava un UFO pagato carissimo, cioè con Dombia che va a integrarsi alla perfezione con Gagliardini. Però non credo che l'ingresso di Brozovic sia stato il motivo della sconfitta con la Sampdoria. Sicuramente è stata una variazione che non ha funzionato, ma non la causa. Ovvio che Pioli ci avrà ripensato lui per primo sul fatto che se la poteva risparmiare, però insomma, qui io credo che gli allenatori vadano giudicati nel complesso. Sicuramente, insomma, nel cambio lì non è stata una mossa giusta, insomma, il che non toglie che Pioli è un bravo allenatore, su questo non ci sono dubbi. Dipende, ripeto, molto dalla dimensione che vuole costruire l'Inter. Io penso che se l'Inter vorrà accelerare i tempi e gli investimenti, comunque, difficilmente potrà prescindere, qualora ci sia la possibilità ovviamente di andare su un profilo alla Conte, ma anche perché serve per far vetrina, no? Serve per comunicare quasi un messaggio. Ma serve perché è bravo, va bene, ma anche per comunicare un messaggio. Vogliamo vincere, sì, ci siamo anche quello, noi. Anche quello, ma al di là del messaggio verso l'esterno, la differenza è un po' come diceva Bagatta prima, cioè ogni allenatore ha una sua categoria di riferimento, il che non toglie la possibilità che Pioli possa diventare un allenatore da scudetto a breve. In ogni caso, comunque andrà a finire questa stagione, l'immagine di Pioli sarà rafforzata. Fiorentina di turno, insomma, un club da quinto sesto posto, io penso che non potrà non guardare a Pioli sta facendo cose molto molto importanti. Il salto vero e proprio per riuscire a farlo ci vuole un pizzico di fortuna, ci vuole tanta bravura, tanta capacità, ma insomma, sai, non è un mercato pieno di... Non è che ci sono 800 squadre in un campionato. No, ma è chiaro. È un gioco di incastri. Serve anche... È arrivato al Napoli... Dopo 20 anni di gavetta serve anche prendere qualcuno che conosca la strada, esattamente come Antonio Conte o come Massimiliano Allegri o come Simeone o come questa gente qui. Lucio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Che è successo? Lui? Niente, no, no, no, niente. Stavo mangiando un pezzo di focaccia. Ah, vabbè, no, mangia le caramelle, Luca, un pezzo di focaccia. Mi date, sì, una, no, mi date, no, una caramella o no? Ho bisogno di, no, ho bisogno di robe dolci, perché l'Inter mi fa, mi fa stare male. Sai proprio. No, rispetto a questa cosa qui di Conte, perché pare che verrà lui, no? Pare, beh, non lo so. Pare, insomma. Non lo so. No, secondo me non è detto, però. E allora penso alle cose del passato. Simoni Lippi. Chiaramente vado di cattivo umore. Cioè, quando l'allenatore non ha il pedigree, è condannato. Simoni aveva fatto una stagione splendida, no? Doveva vincere il campionato, poi vabbè. Diciamo che per sfortuna non lo vinse, vinse la Coppa UEFA, ma era sempre guardato un po' con sospetto, no? Il parvenu, il provinciale. E quindi alla prima sconfitta, che poi furono due vittorie, Real Madrid e Salernitana, viene licenziato e arriva il grande Lippi, il vincente. Vabbè, è andata male, ma non è detto che vada male anche con Conte. Però io questa filosofia dell'allenatore taumaturgo, questo mi fa proprio innervosire. Come quando abbiamo preso Mazzarri. Non vogliamo farle innervosire, Lucio. No, non, no, capiamo che è di cattivo umore, no. Non la vogliamo far innervosire. Però, ragazzi, gli allenatori sono importanti. O comunque sia, sono più importanti i calciatori, ma l'allenatore è uno. Cioè, il peso specifico di un allenatore in termini statistici è nettamente superiore a un undicesimo. Quindi, se tu devi fare un investimento, l'allenatore è importante. Cioè, l'allenatore può significare punti in più o in meno. Io sono d'accordo sul fatto che Pioli stia facendo bene. Credo che ci sia anche un tema che non so se volontariamente o no mi è venuto in mente dalla telefonata del nostro ascoltatore, che è anche un tema, diciamo, di bandiera. Lippi andò male all'Inter e sappiamo benissimo, perché lui stesso l'ha spesso confermato, che insomma si trovò proprio in sintonia con un ambiente da ex juventino. Esiste anche questo, quindi questo è un tema anche interessante, perché Conte è stata veramente la bandiera della Juventus, il capitano della Juve gli ultimi anni, no? La bandiera prima da giocatore e poi da allenatore. Certamente. Questo è un ulteriore tema, anche se ho la sensazione che qualora ci fosse la possibilità e qualora Conte accettasse sarebbe... Sì, io credo che gli interisti ne sarebbero contenti, in linea di massima, al di là delle bandiere, della rivalità, eccetera, eccetera. Ci fermiamo giusto per il traffico, e poi vedo Jenny e Luca Marchetti, che ci dirà se Pioli sì, Pioli no, Pioli forse. Tutti convocati. Tutti convocati. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... Tutti convocati. Ciao Luca Marchetti, da Sky. Ciao, buon pomeriggio. Pioli sì, Pioli no, che Pioli forse. Niente. Pioli forse a questo punto, più che sì. Io non sono per il no in assoluto o per il no a prescindere, perché comunque tutto quello che avete detto prima è vero. Pioli comunque ha lavorato, sta lavorando bene, probabilmente i tifosi in primis si aspettavano qualcosa in più, da un punto di vista risultati e da un punto di vista anche degli scontri diretti, perché alla fine sono questi quelli che, al di là della partita di ieri sera, certo, che nell'immaginario collettivo paga Pioli e anche nella classifica reale, perché l'Inter ha fatto molto bene, ma da quando è arrivato Pioli fino alla settimana scorsa non aveva praticamente recuperato nulla, né sul Napoli né sulla Roma, che erano le due squadre nel mirino dell'Inter. Pur avendo fatto molto bene, pur avendo rimesso in carreggiata l'Inter almeno da un punto di vista di solidità, io credo che se Pioli dovesse finire l'avventura all'Inter, molto dipenderà anche da quali sono le opportunità di allenatori disponibili quest'estate di un certo livello, perché come diceva Pierluigi prima, esistono le categorie anche per gli allenatori. Pioli fa parte di una categoria medio-alta, probabilmente, certo, non è nell'Empireo degli allenatori in giro per il mondo, ma non è detto che i top allenatori siano disponibili per andare ad allenare l'Inter in assoluto o per andarla ad allenare adesso in questa prossima stagione. Sì, poi bisogna fare i conti con io infatti continuo a pensare che allenare una grande squadra sia un mestiere diverso dal fare l'allenatore, il ma che non vuol dire completamente. Vi faccio sentire, ragazzi, un Allegri che oggi si è incazzato, e questo è interessante. La negatività che c'è, che quest'alone di negatività è una cosa che io detesto, perché credo che vedere le cose positive sia la migliore cosa, anche perché credo negli ultimi 3 anni la squadra abbia giocato un po' di finali, abbia vinto un paio di Coppa Italia, ha vinto 2 scudetti, se una volta una volta pareggi non è che succede niente, dopo alla fine l'importante è raggiungere gli obiettivi. È anche vero che ci sono gli avversari e è anche difficile vincere, se no altrimenti qui vincere è la normalità. No, vincere è straordinario, perché vince una sola squadra. Oltretutto una squadra che negli ultimi 3 anni ha fatto una finale di Champions, ha vinto 2 Coppa Italia, ha vinto 2 scudetti, si sta giocando un'altra finale di Coppa Italia, si sta giocando una semifinale di Champions e lotta per il 3° scudetto. Ho capito, e più di questo non si può fare. Allora, giustamente Massimiliano Allegri srotola sul tavolo della conferenza stampa che precede la gara con il Napoli e che probabilmente gli schiuderà le porte verso la 3ª finale di Coppa Italia consecutiva, srotola l'argenteria e fa benissimo. No, Pardo? Sì, fa benissimo. C'è da dire un unico piccolo asterisco e corollario, che Allegri aveva una squadra più forte, però il fatto di allenare la squadra più forte non vuol dire che debba vincere in automatico. Il ruolino a livello italiano è pazzesco, perché lui ad oggi su 7 competizioni ha vinte 5 e ha perso le uniche 2 competizioni, se non sbaglio, ai calci di rigore, Supercoppa italiana contro Napoli, contro Milan, una l'ha vinta contro la Lazio, ha vinto 2 Coppa Italia su 2, ha vinto 2 scudetti su 2 ed è, diciamo, ben messo anche per il 3° scudetto, quindi chiaramente di che stiamo parlando. Ecco, l'unico piccolo asterisco è che chiaramente è la squadra più forte e quindi, essendo la squadra più forte, ci sta un rendimento di questo tipo, però non è automatico, che vinci, quando sei più forte non è per forza però vinci. No, infatti mi viene in mente la volta che l'ha perso lo scudetto con il Milan, che era più forte della Juventus, probabilmente. Voglio dire, sembra che lei abbia ragione, e ripeto, parlavo pure prima con lo zio, c'è sempre la sensazione che Allegri sia visto con un filo di benevolenza in meno rispetto ad altri allenatori, perché ci può essere anche un aspetto ambientale lì, perché è un po' il discorso che faceva prima l'ascoltatore sull'Ippi, l'Inter, la Juve, ci sono delle scuole di provenienza, sapete che Ancelotti si beccò quel terribile striscione sul maiale, il maiale lo amiamo anche dal punto di vista gastronomico, ed era un'assurdità per uno dei più grandi allenatori della storia, perché in alcune circostanze ci può essere anche un po' di vicinanza in meno, un po' di complicità in meno. È chiaro che Conte, da questo punto di vista, partiva per i tifosi della Juve con un altro atteggiamento rispetto a Allegri, però Allegri sta facendo molto bene. No, certo. Senti, Luca, mi pare che quest'anno ci sono stati, questo è un dato di fatto, non pare a me, ma è un dato di fatto, ci sono stati pochissimi esoneri, soltanto 5, e quasi tutti ad opera dei soliti noti, peraltro. Però non ci sia un allenatore in Serie A certo di restare in questo momento, nel bene o nel male, o perché hanno fatto molto bene e magari aspirano ad altre panchine, o perché hanno in qualche modo deluso o stanno deludendo. Sarà l'estate del grande valzer? Ma purtroppo, per fortuna, ad aprile incominciamo sempre con questo grande valzer degli allenatori, poi va a finire che la montagna partorisce il topolino. Sugli esoneri, questo è determinato purtroppo da una scarsa competitività verso il basso, perché le squadre che rischiano sono molte di meno rispetto agli anni passati. E quindi anche una squadra come l'Empoli, che obiettivamente sta facendo molto peggio rispetto allo scorso anno, non ha il patema di doversi salvare e quindi dire: oddio mio, che faccio adesso? Cambio tutta la squadra o cambio l'allenatore? Che sono cose che vengono in mente anche a presidenti meno ballerini dei soliti noti. Per quanto riguarda il prossimo anno, ognuno in questo momento ha delle, o per ognuno intendo sia le società che l'allenatore stesso, delle ambizioni. Da Allegri in giù, giustamente come hai detto tu, Carlo, ognuno ha la possibilità di andarsi a guardare intorno, no? Da Allegri partiamo alla Premier fino a finire con gli ultimi della classifica, tranne Giampaolo, che ha annunciato il rinnovo di contratto per la prossima stagione. E lì il colpo lo fa la Sampdoria di sicuro. Ma a proposito di allenatori e di ambienti, Giampaolo secondo me è un ottimo allenatore, ha vissuto delle annate straordinarie e delle annate da dimenticare nella maniera più assoluta, pur rimanendo sempre Marco Giampaolo, quindi alla fine, come diceva Pierluigi prima, anche l'ambiente in cui ti innesti, indipendentemente dalla bandiera che ti porti dietro, può determinare la fortuna o la sfortuna di un'annata o di un allenatore. ne cambieranno molti, di sicuro qualcuno ne cambierà. La Fiorentina cambierà allenatore al 100%, il Genoa, certo, cambierà allenatore al 100%, che resta del Genoa. Esatto, la Roma molto dipenderà da questa sera, perlomeno da sentire le parole di Spalletti, però sì, mia sensazione, non so se anche la vostra, ma sembra che l'avventura, per me molto positiva, di Spalletti alla Roma sia ormai arrivata a questo l'abbiamo capito da diversi segnali e da diverso tempo, al di là della partita di stasera, Luca. Un altro che secondo me rimane è Inzaghi, a proposito delle altre che hanno fatto molto bene. Guarda, che Inzaghi, via giugno, Inzaghi per me panchina d'oro insieme a Gasperini per questa stagione, nel rapporto tra materiale umano a disposizione e risultati, sì, ottenuti. Sono d'accordo. Comunque sono d'accordo. Il problema sono le 20 squadre con solo 3 retrocessioni, con solo 3 posti in Champions, cioè un problema aritmetico. Però Pier, è una competitività però che manca, perché se le ultime 3 squadre si staccano ad ottobre, sì, e certo, allora... Allora ti saluto il campionato. Allora, io non sono per le 18 squadre, però con 20 squadre secondo me 3 retrocessioni sono poche. Sono poche, il sono meccanismo poche, del paracadute è un meccanismo perverso che è perverso portare. E poi sarebbe il caso di cominciare a pensare forse anche ai playoff, che secondo me mal si adattano a uno sport come il calcio. Ragazzi, vi saluto perché è scaduto il tempo. Pier, ci sentiamo domani con te, con Luca Marchetti, al più presto. GR torniamo con ci tuffiamo nel derby di Roma. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, Padiglione 3, trentodoc.com. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Dopo la partita di domani, sì, se ne può parlare. Ora la partita di domani diventa fondamentale. E i miei calciatori lo sanno bene, il mio tentativo era questo, di motivare i miei calciatori per questa linea importante, non di pensare poi di fare programmi futuri. Questa è una partita che determina poi una finale. Abbiamo un grandissimo rispetto della Roma, però sappiamo al tempo stesso che dovremo fare una partita umile, una partita di sacrificio, perché queste partite vanno fatte in questo modo, fermo restando con l'umiltà e il sacrificio, fermo restando che siamo consapevoli delle nostre forze, perché se siamo arrivati fin qui evidentemente ce lo siamo meritati. Andrea Agostinelli, il biondo di una grande Lazio che riempiva l'Olimpico. Ciao, grazie. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buon pomeriggio. Andrea, prima con lo zio Bergomi e Compardo ci siamo trovati d'accordo su un punto, e cioè, considerando Allegri o Scategori, fa un altro mestiere, Inzaghino e Gasperini sono le panchine d'oro della stagione. Sei d'accordo? Sì, assolutamente d'accordo. Una rivelazione e una conferma, perché io ho riportato sempre Gasperini un grande allenatore, ma anche se ha avuto magari qualche vicissitudine, però credo che sia molto preparato e sta dimostrando tutto il suo valore. Di cosa deve aver paura la Lazio stasera? Non credo tanto delle parole di Spalletti, che dice da qui si deciderà il mio futuro, perché lo vedo come un futuro già deciso e da tempo e sulla base di varie dichiarazioni, insomma. Ma di cosa deve aver paura la Lazio stasera, che parte dal 2-0? Ma deve avere un po' di paura, perché credo che un po' di paura nelle partite di calcio faccia bene a tutte le squadre, e perché vuole dire avere umiltà, rispettare sempre gli avversari, rispettare un avversario che parte da 0-2. Quindi deve aver paura della forza della Roma, come l'ha avuta all'andata, dove ha giocato una grande partita dove per me è stata sottovalutata dalla squadra giallorossa e infatti alla fine si è visto questo risultato così importante. Però ripeto, sì, se la Lazio dovesse entrare in campo con l'idea dello 0-0, del 2-0 a favore, sarebbe il più grande errore della storia, perché non esiste proprio. Quindi credo che la Lazio debba giocare con la mentalità di dire io voglio far gol, come è successo alla partita di andare. Ecco, questo vorrebbe dire cercare di sbloccare il risultato. Se c'è questa mentalità, poi il campo te vedremo. Guarda, sai cosa credo io? Che questa base della Lazio rappresenti un'eccellente base per una squadra da scudetto. Ora mi spiego meglio. Se a Roma sponda Lazio dovesse arrivare, con buona pace di tutti quelli che odiano lo Tito, un Suning a caso, cioè uno con tanti soldi, un investitore, eccetera, io credo che da questa base che la Lazio ha costruito, che lo Tito ha costruito con indubbi meriti, possa, su questa base si possa edificare una squadra davvero molto competitiva. Poi non succederà, perché ma guarda, oggi per essere competitivi devi avere due cose: i soldi e sperare che la Juventus non faccia 100 punti al campionato. Sì, perché il problema è, tante volte si dice vogliamo arrivare, ma attenzione, qualche anno fa probabilmente Napoli e Roma, che sono la seconda, la terza, la terza, la seconda, volete come volete, con questi punti fatti avrebbero lottato per lo scudetto fino alla fine. Ma se trovi una squadra che davanti fa 90-100, ragazzi, non è un facile per le altre rinforzarsi, perché la Juventus non è che negli ultimi anni ha vinto lo scudetto per tre punti alla penultima. No. Voglio dire, ad aprile era già finito il campionato. Quest'anno la forbice mi sembra che sia assolutamente accorciata, però stiamo sempre sui 6 punti, diventeranno 9, io sono convinto possono anche aumentare. Però ripeto, per fare una squadra da scudetto oggi come oggi devi pensare anche a queste cose. No, certo, servono tanti soldi, servono grandi investitori, dicevamo prima, serve al calcio italiano, non ai tifosi del Milan, dell'Inter, eccetera. Alla Juventus stessa serve comunque una Milano competitiva, serve una Roma, con Roma e Lazio competitive, serve competizione, per questo ci vogliono tanti soldi. Guarda, e Napoli e Roma non possono avere questo tipo di capitali. No, hai detto bene, anche perché i tempi in cui lo scudetto lo vinceva, io parlo degli ultimi 30 anni, Cagliari, Verona, Lazio, Sampdoria, queste sono state le squadre che hanno vinto lo scudetto. Allora, immaginate oggi è impossibile, oggi l'Atalanta può fare il miracolo di entrare in Europa League, ma più di quello non può andare. Cioè, una volta si vinceva anche probabilmente senza grandi capitali, oggi è il calcio dei capitali, che male che ti va arrivi secondo o terzo se investi i capitali. Cioè, credo che questo sia il calcio dei soldi, e chi non li può mettere fa fatica, insomma, dai, alla fine. Dai. Sì. Un'ultima cosa, chi vedi nel futuro sulla panchina della Roma? Ancora Spalletti o qualcun altro? E se no, qualcun non credo, io così ho una mia idea, Spalletti no. Spalletti no, ed è la mia stessa idea. Qualcun altro tipo? Qualcun altro, io mi butto su Emery. Ti butti su Emery? Questo è un discorso molto interessante che ci... solamente perché mi sembra che la Roma abbia fatto firmare al... A Monchi? Ho fatto 2 più 2 fa 4, ma... Il quale ha detto, mi piace molto Luis Enrique... Luis Enrique ha detto no, mi prendo un anno sabbatico. Immaginati il ritorno di Luis Enrique a Roma. Ma io non lo so, per lui sarebbe una grande rivincita, un grande stimolo, però non lo so. Cioè, c'è da dire, attenzione, che Luis Enrique sta allenando il Barcellona e Emery sta allenando il Parigi. Cioè, voglio dire, sì, a questo punto Luis Enrique è già comunque sulla piazza, perché voglio dire. Bisogna vedere se loro reputano la Roma un passo in avanti nella carriera. Da Barcellona e Paris Saint Germain così convinto, e questo è un bel tema, caro Andrea Agostinelli, grazie. prego ciao. È un bel tema che giro subito a Roberto Renga. Sì, buon pomeriggio, ciao. A tutti. Lo so, ma infatti pensavo, dico, ma perché Emery, che ha appena vinto la Coppa Francese, che come sapete con quella finale col Monaco, sì, per 4-1. Non so se vince lo scudetto, però non so se vince lo scudetto. Però intanto la Coppa l'ha vinta, il primo anno. Comunque, insomma, il Paris Saint-Germain è una delle grandi europee, anche se quest'anno non si sta confermando in pieno. E lo Sheikh non credo sia rimasto benissimo dopo quella partita di Barcellona, eccetera, eccetera. Non sarà contento, non sarà sicuramente contento. Però io anni fa io feci una domanda di questo tipo a Franco Baldini, che come sai è il consigliere londinese, no, di Pallotta, sì, certo, del bostoniano Pallotta, e gli dissi: ma perché hai preso Luis Enrique invece che Emery? Dico, che sta facendo così bene, no? Che fa delle plusvalenze meravigliose. Cioè, se l'avessi conosciuto non mi avresti fatto questa domanda. Come a dire, dice, guarda, insomma, lui l'aveva bocciato sul piano caratteriale, non tecnico. Sì. Quindi non so se a distanza di anni poi ha cambiato idea, perché come sapete poi alla fine gli allenatori li sceglie Baldini, come ha scelto Spalletti, così poi sceglierà, immagino, il prossimo. Monchi sì, ha parlato molto bene di Luis Enrique, ma evidentemente non conosce ancora la storia romana. Anche se è vero che in quell'occasione Luis Enrique era soprattutto... Però dammi una risposta da... Roby, dammi una risposta da Agostinelli. Cioè, per un allenatore come Emery, che attualmente è alla guida del Paris Saint-Germain, anche se non penso rimarrà su quella panchina dopo Barcellona, e vediamo cosa succede in Ligue 1. Luis Enrique è praticamente senza panchina, perché si è già dimesso da tempo da questo Barcellona. Esatto. Ha confermato oggi, però sai, è un attimo dire: ma volevo prendere un anno sabbatico, poi non ho resistito alla tentazione, al fascino del ritorno nella capitale, di prendermi una rivincita. Qui si fa presto, è verba volant, dicevano i latini. Sì. Anche Lotito. Anche Lotito. Sì, è Lotito. Però io dico che intanto bisogna chiedersi, allora, se Emery è libero, certo che Roma va bene. Se Emery è occupato, Roma non va bene, perché comunque Paris Saint-Germain è una piazza più potente. E Luis Enrique l'anno sabbatico, l'ha detto lui, perché non ce la fa più. Poi, conoscendolo, è uno che in questo momento si sarà prosciugato completamente. Sì. E poi sa bene che in Italia non godi di tutti i vantaggi tattici di cui hai goduto in questo periodo in Spagna, e soprattutto non hai messi Suarez e Neymar, a quei tre ragazzini che sono niente male. Poi sai, anche quando sento dire Pochettino, sai, allena in Inghilterra, allena una grande squadra, e chiaramente sarebbe un passo indietro in questo momento, perché i soldi stanno là, non è che stanno qua, stanno lì. Sì. E come sapete, i soldi, bene o male, ai noi contano. Dunque, chi sarà il prossimo allenatore della Roma? Ma io veramente, sinceramente, pensavo che potesse essere Eusebio Di Francesco. Poi qui a Roma cominciano a storcere la bocca, perché dice: allora vuol dire che prendono solo i giovani, e quindi vuol dire che l'hanno già bocciato. Poi rimarrebbe Mancini, che è uno che invece vuole grandi giocatori, ma appunto uno che chiede i grandi giocatori viene alla Roma in questo momento, sapendo che comunque la Roma uno o due già si sa che li venderà a giugno. Questa è un'altra domanda. Il terzo, sai, alla fine chi c'è? Oppure il quarto, io ci metto anche un quarto. Il terzo è Montella, che come lo chiama la Roma è una sirena, no, di quelli irresistibili per lui. È stato due volte sedotto e per due volte abbandonato, sì, ma secondo me ci ricadrebbe anche la terza volta. Claudio Ranieri. Ma dici, perché Claudio Ranieri no? Perché Ranieri l'anno scorso era il miglior allenatore del mondo, no? È detto da tutti, non da me soltanto. E perché no? Dice, perché è un cavallo di ritorno. Lo era anche Spalletti, lo era anche Zeman in precedenza. Esistono i cavalli di ritorno, mica li vogliamo sparare. Roberto, ti chiedo un'ultima cosa. Allora, sì, sarà il derby della gente, dei 50.000, delle barriere che cadono grazie a lotti cui i tifosi dedicano gli striscioni. Sarà il derby di sera? Sarà che derby? Derby di Spalletti. È il derby di Spalletti, perché conta soprattutto per Spalletti, che ha legato tutto il futuro suo e quindi gran parte della Roma a questa partita. Ma non è vero, ma Spalletti ha rotto con la Roma da un sacco di tempo, lo sai meglio di me, Roberto. Ma anche la Roma ha rotto con Spalletti. E la Roma ha rotto con Spalletti un sacco di tempo fa, ma non far finta di credere alle parole di Spalletti. Dai, ma su. Spalletti qui a Roma, non mi fa dire niente. Però dico, ha un po' esagerato, diciamo che è andato oltre le righe. Però questo ha detto lui, per cui questa sera, se non altro, dovrà sciogliere, no, tutti questi interrogativi. Una società come la Roma, o come la Lazio, o come la Fiorentina, non può stare in balia delle idee dell'allenatore, un giorno rimane, un giorno non rimane. Ma certo. Io immagino che questa sera gli diranno: adesso vai davanti alle televisioni, Mediaset, Sky, vai dove ti pare, Radio, tutti i convocati, vai dovunque vuoi, ma dici esattamente che cosa vuoi fare da grande, perché noi non possiamo aspettarti. E lui ti risponderà nel caso in cui ha perso, dipende dal contratto di Totti, nel caso in cui ha vinto dipende dalla guarigione di Florenzi. Allora come fai? Gli dai la mano e gli fai ciao, grazie. Benissimo, ed è quello che succederà. Grazie a te Roberto Renga, ti do una metaforica mano. Grazie. Ciao. Alessandro, buongiorno, dica. Sì, buongiorno, grazie della convocazione. Guardi, una considerazione velocissima. Io ieri sfortunatamente ero a Milano, ero a San Siro, e è stata una partita molto brutta sia dal primo tempo e per quello che riguarda come è stata giocata dai giocatori dell'Inter, ma la cosa che era una considerazione la mia, quello che volevo dire, c'erano 45.000 persone, era Inter-Sampdoria. E forse ci aspettavamo qualcosa di più di lunedì sera. Bravissimo. C'è stato uno sforzo importante da parte del pubblico, c'erano tantissimi bambini, tantissime famiglie, un bellissimo clima, è stato persino applaudito Alvarez, questo per dire che bel clima che c'era allo stadio. È stata veramente una bellissima serata di sport. Mancato tutto tranne il risultato, insomma non è arrivata la sposa, facciamo così. Con l'impegno è mancato forse un po' di impegno. Non è arrivata la sposa, era tutto pronto, altare bello, il rinfresco eccetera, non è arrivata la sposa. Sono cose che capitano, Alessandro. Comunque io vedo, mi auguro seriamente un futuro che ricomincerà in estate per l'Inter. Attenzione che c'è quel sesto posto che è scivoloso più di un gradino ricoperto di melma nell'acqua, perché se l'Inter arriva a sesta si fa il preliminare di Europa League agli inizi di agosto, ci sono delle tournée ovviamente asiatiche già firmate, già inchiostrate, e non vorrei in questo momento essere nei panni di chi deve scegliere che cosa fare. Comunque, cambio argomento e vado dal mio amico Luca Chiabotti. Ciao Luca. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao, come stai? Bene, bene. Bene, bene. Hai fatto tardi anche tu come Guido Bagatta che ho sentito prima, che ha tirato le 6 del mattino tra una leccata del bassotto e un occhio che si chiude e un caffè. Senza il bassotto. Hai fatto anche tu le 6 del mattino per vedere la finale NCAA con North Carolina, che che Bagatta ha definito la Juventus del basket universitario americano. Non so se con malizia oppure no. Bah, forse la Juventus è Duke. Però prendiamo pure questo paragone. Michael Jordan non avrà ancora finito il suo sigaro chilometrico in questo momento. Senz'altro. Allora, gentile a Gerusalemme per rimettermi in gioco, dichiara il figlio di Nando, vada Pianigiani. L'Hapoel Gerusalemme è una squadra molto ambiziosa del campionato israeliano, classifica cortissima, si gioca un ex NBA come Stoudemire che è al caffè della sua carriera, però è anche entrato in società perché lui è ebreo. C'è chi dice, hanno suggerito a Gentile gli allenatori della nazionale, lo staff della nazionale, guarda, trovati una squadra perché sennò agli europei non vieni. Credo che, non so se gliel'hanno suggerito, ma sicuramente era una condizione quasi necessaria, quindi giocare alla Poel molto meglio che giocare da soli, allenarsi da soli, perché tra l'altro il problema di Alessandro non è stato tecnico fisico, ma è stato di rapporti e di con una squadra. Quindi bene la Poel, meglio del Panathinaikos, perché secondo me solo un giocatore al massimo, all'apice della propria forza fisica e mentale avrebbe potuto aver successo in quella situazione, cosa che Alessandro non era per ovvi motivi dopo il divorzio abbastanza traumatico con Milano. Adesso anche questa è una buona opportunità, ovviamente c'è Simone Pianigiani che è una garanzia, il problema è che anche la Poel è una squadra francamente in difficoltà, al massimo avrà una decina di partite se arriva alla finale per il titolo, ma si gioca tutto nelle prossime 4 o 5, quindi lì bisogna vedere se Alessandro sarà pronto per avere già un ruolo un ruolo importante, e speriamo per lui sì, anche perché così almeno allunga la sua stagione fino a delle partite veramente importanti. Proviamo a ritrovare un giocatore, e proviamo a ritrovare un giocatore che è un talento pazzesco, che si sta un po' perdendo nelle nebbie emotive e insomma di carriere, esatto, di contratto. Esattamente. Io francamente credo che se gli fosse stato suggerito qualcosa da qualcuno legato alla nazionale, gli avrebbero consigliato tempo fa di andare a giocare in D-League con la squadra di Houston per avere una stagione più lunga e, guarda caso, avere magari a 3 ore di macchina Ettore Messina. Però questo ormai col senno di poi, speriamo che Alessandro riesca a fare il meglio possibile alla Poel, soprattutto non voglia spaccare il mondo subito, ma voglia essere e tornare Alessandro con molta più serenità. Luca, una sbirciatina al campionato. Venezia sempre più seconda da sola, Milano che ne becca 20 in casa da Trento, e immediatamente Repesa chiede nuovi rinforzi, Varese 6 su 6 derby compreso. Ma Venezia in questo momento è una squadra molto forte, perché si è rinforzata molto, sta bene. È molto interessante vedere domenica quando verrà a Milano, perché di solito è venuta a fare delle gite, poi essere accontentarsi del risultato onorevole. Se è una squadra ambiziosa come è, deve venire a Milano e vincere, o almeno fare di tutto per vincere. Milano ha il problema che non fa una partita vera dalla fine della Coppa Italia, perché con questa Eurolega presa, diciamo, mettiamo sotto gamba, chiamiamolo così, questa Eurolega e questo campionato in cui era prima e senza stimoli, il fatto di non avere sfide l'ha portata, più sono arrivati gli infortuni e questo sono il risultato delle ultime partite. Quindi oltre ai rinforzi dovrà, come dicono gli americani, riallacciarsi le scarpe non correre dei grandissimi rischi già nei primi turni dei playoff, che saranno belli, e magari ci arriverà anche Varese, perché se continua così ce la può anche fare, ma credo che comunque al di là di questo molte squadre lì adesso, purtroppo Trento ha avuto degli infortuni recenti molto gravi, però molte squadre lì si siano sistemate e potranno essere divertenti e anche insidiosi per Milano, anche con un nuovo acquisto. Grazie Luca. Grazie a te. Troviamo la tua firma anche su Sports Senators, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa con il fondatore Vincenzo Martucci. Noi ci fermiamo qui. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, ragazzi. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.